le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Sindaco di Roma Ignazio Marino sta per lasciare nella capitale, presumibilmente si andrà al voto nel 2016. Voce di dimissione degli assessori romani del Partito Democratico, ma arriva la smentita. La NATO sull'intervento russo in Siria: non mirano all'ISIS ma a sostenere Assad. Avviata un'offensiva di liberazione, dice il capo delle forze armate di Damasco. Tra pochi istanti l'annuncio del Nobel per la letteratura, ve lo daremo in diretta. Scandalo FIFA, sospesi per 90 giorni Blatter, Platini e l'ex vicepresidente Volk. Sassaiola contro il Pullman, partita ad alta tensione tra Serbia e Albania. Belgrado minaccia: non giochiamo. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Vi trasmettiamo oggi da EMO, che è la fiera internazionale delle macchine utensili che si svolge a Milano, alla fiera di Milano, alla fiera di Rho. Tra un attimo andremo alle vicende romane, ma intanto io voglio salutare la nostra Marta Cagnola. Marta, buongiorno. Buongiorno Simone, ancora qualche istante stiamo aspettando il nome. Il nome del Nobel per la letteratura, e ve lo daremo tra un attimo, ma ovviamente in primo piano c'è la vicenda del sindaco di Roma, Ignazio Marino. La sua posizione si sta facendo sempre più difficile, tutti lo danno ad un passo dalle dimissioni, le dichiarazioni di sfiducia anche da partiti che hanno sostenuto la maggioranza fino a questo momento si fanno sempre più intense. Il punto dal Campidoglio, dove tra l'altro dovrebbe iniziare a breve una riunione della giunta, da Andrea Viali. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, è proprio così, è questione di ore, forse addirittura di minuti, ma sembra ormai arrivata, diciamo, alla capolinea l'esperienza di Ignazio Marino in Campidoglio. Il sindaco di Roma dovrebbe infatti annunciare le sue dimissioni in giornata, e a convincerlo nelle ultime ore sarebbe stato il pressing diventato asfissiante da parte del suo partito, il Partito Democratico, dopo le ultime polemiche sulle spese sospette fatte da Marino con la sua carta di credito comunale. Matteo Renzi avrebbe minacciato di ritirare tutti gli assessori democratici dalla giunta se non fossero arrivate le sue dimissioni che forse saranno annunciate già nella riunione della giunta a cui facevi riferimento, che era in programma stamattina ma il cui inizio è stato posticipato già un paio di volte. La fine di questa amministrazione appare ormai inevitabile, ha affermato uno degli assessori più vicini a Matteo Renzi, l'assessore ai trasporti Esposito. Le opposizioni, a partire dal Movimento 5 Stelle, naturalmente già cantano vittoria e chiedono di andare subito al voto. Tra l'altro molti esponenti, molti parlamentari del Movimento 5 Stelle sono arrivati questa mattina in Campidoglio, Simone. Ti ringrazio Andrea Viale, torneremo a collegarci con te nel corso della puntata, raccoglieremo anche l'opinione del direttore del quotidiano romano più eminente, il Messaggero, Virman Cusenza, per sentire che cosa ne pensa e che cosa potrebbe succedere nelle prossime ore. Intanto, come si diceva, in giornate nelle quali si discute di riforme, di unioni civili e anche di ius soli, in realtà la notizia politica in primo piano resta questa. E dunque dal Parlamento sentiamo Vincenzo Miglietta. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, è così, l'accelerazione al Campidoglio arriva a camere aperte, impegnate, lo ricordavi, con le riforme costituzionali, il Senato e le regole sulla cittadinanza, l'aula di Montecitorio. Inevitabilmente quanto sta accadendo a poche centinaia di metri sta condizionando però il dibattito parlamentare, occhi puntati sul Campidoglio anche da parte di Palazzo Chigi. Questa mattina il Presidente del Consiglio Renzi avrebbe sentito il commissario romano del PD Orfini, con il quale vi sarebbe piena condivisione della linea che il Partito Democratico sta seguendo in relazione alle dimissioni di Ignazio Marino da sindaco. In sostanza Marino sarebbe stato lasciato al suo destino dal partito di riferimento. A prendere le distanze anche Sinistra, Ecologia e Libertà, alleato in Campidoglio. Sentiamo allora il capogruppo alla Camera, Scotto. Mi sembra abbastanza inevitabile dopo quello che è successo oggi. È un'esperienza ormai da considerare chiusa. Che cos'è che ha portato a fondo Marino secondo lei? Errori amministrativi che noi abbiamo sottolineato soprattutto nell'ultima fase, e poi probabilmente una certa leggerezza nei comportamenti che oggi sono sotto gli occhi di tutti. Opposizioni poi in Parlamento che in generale guardano intanto alle elezioni, andare presto alle urne è quello che chiedono Forza Italia e Fratelli d'Italia, al voto in tempi rapidi anche per il Movimento 5 Stelle. Sentiamo Di Battista. Oggi ci troviamo in una condizione assurda, a 2 mesi dal giubileo, proprio tipicamente italiana e piddina, a 2 mesi dal giubileo, con l'incertezza di avere o non avere un sindaco, di non sapere che cosa farà questa città. Chiediamo il voto il prima possibile, perché il prima possibile, vediamo i tempi tecnici, però il prima possibile, però la posizione, noi siamo sempre stati lineari, abbiamo chiesto il voto per Roma il prima possibile, perché qualunque sindaco, poi i romani decideranno un sindaco di centrodestra, riconfermare un sindaco del PD o mettere alla prova il Movimento 5 Stelle. Questo non sono io il candidato del Movimento 5 Stelle, non mi candiderò, e ripeto, il Movimento 5 Stelle crede che questa città, come l'Italia, la risolve il cosa, non il chi. E alle 16 riunione comunque SEL con Orfini per concordare quella che in molti chiamano già l'exit strategy. E da Roma è tutto. E grazie Vincenzo Miglietta per questo aggiornamento, e su Roma torneremo sia nella seconda che nella terza parte della trasmissione. Nel frattempo ritorniamo a parlare del Nobel per la letteratura, perché è arrivato, come era nelle attese, Marta Cagnola. Chi è? Le attese sono state rispettate, diciamo che il nome suggerito alla vigilia era quello giusto, la bielorussa Svetlana Alexievich, che era la favorita dei bookmaker, è il premio Nobel per la letteratura. 67 anni, è la 14ª donna laureata con il Nobel. La motivazione: per la sua scrittura polifonica, un monumento alla sofferenza e al coraggio nel nostro tempo. Il suo lavoro è a metà tra la letteratura e il giornalismo, è stata la prima scelta dei critici, era anche la favorita dagli scommettitori e persino dal gatto svedese Moki, che aveva previsto i precedenti premi Nobel. Lei è soprattutto nota per essere stata cronista dei principali eventi dell'Unione Sovietica dalla seconda metà del XX secolo e poi di tutti gli eventi di oggi. 4 i suoi libri editi in Italia, 3 da EO Edizioni, l'ultimo nel 2014 da Bompiani, che era Tempo di seconda mano, la vita in Russia dopo il crollo del comunismo. Ripeto, è la bielorussa Svetlana Alexievich, il premio Nobel per la letteratura 2015. E grazie Marta Cagnola per questo aggiornamento. Passiamo adesso all'estero, con lo scenario siriano, dove il capo delle forze armate di Damasco parla di un'avviata offensiva di liberazione, ma le tensioni tra la NATO e la Russia restano molto forti. In Syria we have seen a troubling escalation of Russian military activities. In Siria c'è una preoccupante escalation di azioni militari russe. La NATO è pronta a difendere tutti gli alleati, compresa la Turchia, dove dispiegherà le sue forze se necessario. Ad avvertire il Cremlino è il segretario generale della NATO Stoltenberg, che ribadisce la necessità di una transizione in Siria, vale a dire di un superamento della leadership di Assad, che Putin invece vuole lasciare al potere. Intanto l'offensiva russa continua, 11 località controllate dai terroristi sono state colpite dai missili lanciati sulla Siria dalla flotta russa del Caspio, lo scrive l'agenzia governativa Sana, aggiungendo che l'esercito di Damasco sta colpendo duramente le postazioni terroristiche indebolite dai raid di Mosca. Contro le operazioni russe, che per la coalizione colpiscono i ribelli moderati più che l'ISIS, si schiera anche la Gran Bretagna. Mosca sta rendendo molto più pericolosa una situazione già molto seria, le parole del ministro della difesa britannico Fallon. Il nostro ministro della difesa, Roberta Pinotti, ieri ha confermato che l'Italia non parteciperà alla coalizione anti-ISIS in Siria, anche se resta aperta la possibilità di un nostro maggior coinvolgimento militare in Iraq. È un'ipotesi che stiamo valutando, ha detto ieri la Pinotti, ma in ogni caso una decisione dovrà coinvolgere il Parlamento. Nuove indiscrezioni di stampa danno invece per già deciso un nuovo ruolo in Iraq delle nostre forze militari. Stando a quanto oggi pubblica il Corriere della Sera, i 4 Tornado italiani entreranno in azione in Iraq entro un mese. La risoluzione approvata nell'agosto 2014 dal Senato per concedere il via libera alla missione in Iraq, si legge nell'articolo, consente già interventi di attacco, ma Matteo Renzi ha ribadito la necessità di coinvolgere le Camere. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le autorità filippine hanno lanciato questa mattina una massiccia operazione di ricerca lungo le aree costiere vicino a Dipolog City, dove ieri sera un commando armato ha rapito l'ex sacerdote italiano Rolando Del Torchio nel ristorante che lui gestiva. Elicotteri, navi della Guardia Costiera e membri delle forze armate partecipano alla ricerca, che si espande fino all'isola di Sulu, dove il gruppo islamico radicale Abu Sayyaf, tra i maggiori sospettati del sequestro, ha la sua base principale. La cronaca italiana: è stato rapidamente arrestato l'assassino della ventenne giordana Di Stefano, ne abbiamo parlato ieri in Effetto Giorno, il suo ex compagno che lei aveva denunciato per stalking. Letizia Carrara ha intervistato il procuratore di Catania, Michelangelo Patanè. Evitare alle donne, alle ragazze, di incontrare questi uomini in luoghi isolati e da soli. perché se questo incontro fosse avvenuto in un luogo pubblico e in presenza di altre persone, a questa tragica fine non si sarebbe giunti. Si tratta di fatti in gran parte imprevedibili. Non è facile prevedere delle misure definitive e decisive. Anche la risposta giudiziaria non può essere determinante, perché come abbiamo visto il processo era in corso e proprio c'è stata ieri l'udienza. Non è quel processo che avrebbe bloccato il soggetto, tant'è che il processo era in corso e questa furia si è scatenata lo stesso. Restiamo sulla cronaca. Tre poliziotti arrestati nel Casertano avrebbero spacciato droga per conto dei boss, fatto sesso con delle prostitute in commissariato e accompagnato con delle volanti. Gigi D'Alessio. Stavano lavorando nel Casertano per smantellare una costola del clan camorristico Belforte e si sono ritrovati a indagare su tre loro colleghi. Gli uomini della squadra mobile hanno arrestato tre agenti del commissariato di Marcianise. I tre avrebbero spacciato droga per conto dei boss e si sarebbero intrattenuti con delle prostitute facendo sesso all'interno delle volanti e nei locali della questura, come ci spiega il dirigente Alessandro Tocco. Si appartavano con le auto di servizio all'interno del commissariato con delle loro amiche. Ma per i tre è scattata anche l'accusa di peculato. I poliziotti avrebbero utilizzato le gazzelle come auto blu di Gigi D'Alessio. Sono stati un utilizzo improprio dell'autovettura di servizio che ha accompagnato il cantante durante un suo spostamento sulla città di Napoli. Poi uno dei poliziotti ha fatto anche una tournée negli Stati Uniti accompagnando il cantante l'anno scorso, perché per andare a tournée ha falsato il certificato medico dicendo che si trovava in malattia. Carlo Terzano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo di calcio adesso e di calcio e violenze, a dire il vero, perché è a forte rischio la partita tra Serbia e Albania di questa sera. Albania-Serbia, cresce la tensione attorno a questa partita che si gioca stasera a Tirana e che impegna per la sicurezza oltre 2000 agenti. La federazione di Belgrado, dopo la sassaiola contro il pullman serbo, minaccia di non giocare se non viene garantita la sicurezza. Le premesse infatti fanno temere il peggio, soprattutto dopo la precedente partita di Belgrado sospesa per tafferugli fumogeni e quel famoso drone con la bandiera albanese che un ultra di Tirana ha fatto volare sullo stadio. Immagini che hanno fatto il giro di tutto il mondo. L'autore di quella bravata, Ismail Morina, è stato fermato per precauzione dalla polizia, ma la tensione è fortissima soprattutto per i risvolti politici. Come noto, Albania e Serbia sono divise geograficamente e politicamente dal Kosovo. Per i serbi è una regione autonoma, per gli albanesi un pezzo della loro storia, oltre che un paese che nel 2008 ha proclamato l'indipendenza, il tutto a distanza di due soli decenni dalla guerra conclusa nel 1999. C'è anche molta Italia in questa partita. L'allenatore dell'Albania è Gigi De Biasi, l'arbitro Rizzoli. Speriamo bene. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dal calcio e la violenza al calcio e gli scandali. È arrivata la sospensione per Joseph Blatter e Michel Platini. Carlo Genta, ciao, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno a tutti. Sì, adesso è ufficiale. Il comitato etico della FIFA ha fermato per 3 mesi, appunto, per 90 giorni, il numero uno del calcio mondiale, Sepp Blatter, e il principale candidato alla sua sostituzione, e cioè Michel Platini. Sospensione anche per Jérôme Valcke, che è stato segretario generale della FIFA dal 2007 al 2015, già sollevato però dall'incarico in seguito agli scandali che sono iniziati alla fine di maggio. Mentre l'ex vicepresidente Chung Mon-yoon è stato squalificato per 6 anni, anche lui era candidato alla sostituzione di Blatter. Dunque questa è la decisione che è stata presa, una decisione che per Blatter era attesa, per Platini insomma un po' meno c'era da aspettare, tanto che in mattinata Platini aveva detto, consapevole della possibilità di questo provvedimento, però aveva detto: ho appena presentato la mia candidatura alla presidenza, dunque non mi ritiro. Credo che cambieranno e di molto le carte in tavola. Per ora molto confuse le carte sul tavolo del calcio. Vedremo che cosa succederà appunto a livello del governo del calcio internazionale. Grazie intanto a Carlo Genta. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e poi torneremo a parlare della situazione a Roma e delle imminenti dimissioni del sindaco di Roma Ignazio Marino, oltre che di quello che sta succedendo con la Russia, perché si sta alzando la tensione proprio in questi minuti. Poco fa la Gran Bretagna ha dichiarato che invierà un centinaio di soldati nei paesi baltici e Mosca ha fatto sapere. sapere. Reagiremo. Tutto questo tra poco. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Minuti contati a quanto sembra per il sindaco di Roma Ignazio Marino, che si starebbe per dimettere. A Svetlana Alexievich, scrittrice bielorussa, il premio Nobel per la letteratura. Si alza la tensione con la Russia, la Gran Bretagna invia soldati nei paesi baltici e Mosca replica, reagiremo. Tre poliziotti arrestati nel Casertano avrebbero spacciato droga per conto dei boss e fatto sesso con delle prostitute in commissariato. Ed eccoci di nuovo con la seconda parte di Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Di nuovo in collegamento con il Campidoglio, sono ore se non minuti convulsi, come si diceva poco fa. Andrea Viali, eccoci di nuovo, ci sono aggiornamenti? È iniziata la giunta? Non lo sappiamo ancora, come dicevi Simone, la situazione qui in Campidoglio è ancora molto confusa, attendiamo l'inizio di questa riunione della giunta, nella quale Marino, travolto dalle polemiche, lo ricordiamo, sulle sue spese sospette, potrebbe annunciare le sue dimissioni, una decisione maturata nelle ultime ore dopo l'ultimatum che sarebbe arrivato, usiamo il condizionale perché ci sono naturalmente delle smentite ufficiali, ultimatum, dicevo, arrivato da Matteo Renzi, che avrebbe minacciato di ritirare tutti gli assessori della sua giunta, gli assessori democratici della sua giunta, se non fossero arrivate appunto queste dimissioni del sindaco. Nel frattempo posso dirti che nel Campidoglio stanno arrivando diversi esponenti anche di carattere di rilievo nazionale del Movimento 5 Stelle, di Fratelli d'Italia e della lista Marchini, insomma di tutte le opposizioni che da mesi, lo ricordiamo, chiedevano un passo indietro del sindaco a partire già dal periodo della bufera di Mafia Capitale. Ora naturalmente la loro richiesta è quella di tornare subito al voto. Simone. Grazie Andrea Viali, con te torneremo a collegarci più avanti nella terza parte della trasmissione. Adesso veniamo alle vicende militari di queste ore, a partire dall'attacco russo in Siria, da questa nuova offensiva che per sostenere anche l'esercito di Damasco nella lotta contro i ribelli, non solamente quelli dell'ISIS come abbiamo raccontato, secondo vari paesi tra cui la Turchia e secondo la stessa NATO, l'obiettivo dei russi non sarebbe l'ISIS ma sarebbero proprio i ribelli anti-Assad e il sostegno al regime di Assad. È notizia di poco fa che la Gran Bretagna ha fatto sapere che invierà un centinaio di soldati nei paesi baltici ed è arrivata subito la risposta del portavoce del Cremlino, dice: qualsiasi piano di avvicinamento delle infrastrutture militari della NATO alla Russia porterà ad una risposta reciproca per ristabilire la necessaria parità. Gianandrea Gaiani, direttore della rivista Analisi Difesa. Gianandrea, buongiorno e bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno, grazie, buongiorno a voi e anche ai radioascoltatori. Che sensazione hai da tutto questo coacervo di tensioni internazionali che circondano soprattutto il ruolo di Mosca? Beh, sai, qui è dalla crisi ucraina che una buona parte del mondo occidentale, in particolare le potenze anglosassoni, gli angloamericani, cercano di convincerci tutti che il nostro nemico, il nemico dell'Occidente, è la Russia di Putin. Mentre noi vediamo, e comunque lo scenario medio orientale lo dimostra chiaramente, che continuassimo a seguire le indicazioni di una coalizione a guida statunitense che non ha combinato un granché contro gli estremisti islamici nell'ultimo anno, l'alternativa a quel regime certo dispotico di Bashar Assad in Siria sarebbe uno Stato islamico, magari condiviso, una cogestione tra ISIS e Al-Qaeda. Al-Qaeda è il movimento più forte tra quelli dei ribelli che combattono il regime di Bashar Assad. Quindi, insomma, mi pare un po' particolare, un po' anche naif che Stati Uniti, NATO continuino ad accusare la Russia, che in fondo è paradossale se ci pensiamo. 14 anni dopo l'11 settembre i russi bombardano Al-Qaeda e gli americani protestano. Gianandrea, questa fase di tensione secondo te come può evolvere? Perché ne abbiamo parlato spesso, l'impressione è che nessun paese occidentale abbia voglia di mettersi in campo con la stessa energia e con la stessa forza che ci sta mettendo la Russia. Secondo te qual è una possibile evoluzione di scenario in Siria? Ma vedi, la Russia ha trovato uno spazio militare per entrare in maniera significativa nel conflitto perché l'Occidente ha lasciato questo spazio vuoto. La, riottosità delle potenze occidentali a mandare truppe sul terreno, ma anche un'azione militare aerea, quella della coalizione, molto blanda. Pensiamo che non solo non sono riusciti a sconfiggere l'ISIS, ma neppure a impedire che questo movimento conquistasse città importanti come Palmira o Ramadi. Insomma, la debolezza del fronte occidentale ha lasciato uno spazio che i russi stanno occupando, e occupano per garantire i loro interessi. I loro interessi sono che resista Bashar Assad, o comunque che al-Bashar al-Assad possa andarsene, ma in un contesto in cui il suo posto non venga preso da forze jihadiste. Perché? Perché Mosca, ed è questa un'ipotesi molto probabile, perché la potenza russa in questo momento, con l'aiuto anche dell'Iran, è in grado di dare delle garanzie militari che l'Occidente, al di là delle parole e dello sforzo aereo, non riesce a dare, a meno che non vogliamo ipotizzare uno scontro in Medio Oriente fra aerei russi e occidentali. Per la visione strategica russa, il fronte siriano è alle porte di casa, perché loro valutano che una volta caduto Bashar Assad, l'attenzione dei gruppi jihadisti, Stato Islamico, Al-Qaeda e Salafiti, si riverserà sul Caucaso russo e sulle repubbliche asiatiche ex sovietiche. Proprio per questa ragione i russi combattono in Siria come se combattessero a casa loro. E un po' hanno ragione, perché tra i ribelli, tra i miliziani dell'ISIS e di Al-Qaeda, ci sono almeno 3.500 cittadini russi o di paesi ex sovietici. L'ultima domanda che ti voglio fare, Gianandrea, in breve, è su quest'ultima mossa della Gran Bretagna, che parla dell'invio di soldati nei paesi baltici e la quasi ovvia reazione di Mosca. Che cosa rappresenta questo elemento? Vedi, questo è un elemento che si sta ripetendo ormai da più di un anno, da quando è cominciata la crisi ucraina, e la NATO rafforza in maniera simbolica, con unità molto piccole, 100 soldati, 4 aeroplani, 6 carri armati, e i paesi della NATO, dell'Est Europa, i paesi baltici, la Romania, la Bulgaria, ma non interviene ovviamente militarmente al fianco di Kiev, non l'ha mai fatto. E i russi, così in qualche modo salva la faccia, la Russia protesta contro la NATO, ma è consapevole che finché l'Ucraina resta, il governo di Kiev resta molto debole e i ribelli filorussi invece sono in grado di mantenere il controllo delle zone dell'est del paese, insomma diventa, tutto ciò resta un gioco delle parti in cui la NATO fa finta di rafforzarsi, la Russia fa finta di arrabbiarsi, ma in realtà i russi riescono a ottenere quello che finora hanno, era il loro obiettivo, cioè ridurre i danni di un'Ucraina che esce dalla loro area di controllo, la loro area di influenza, e sostenere gli autonomisti. E grazie Gianandrea Gagliani, direttore della rivista Analisi Difesa, per averci aiutato ancora una volta a capire che cosa sta succedendo. Passiamo a parlare di Volkswagen, perché oggi il capo dell'azienda negli Stati Uniti chiederà scusa per lo scandalo emissioni di fronte al Congresso, ma intanto, come vi abbiamo raccontato ieri, sono partite le inchieste in Italia e si potrebbero aprire spazi per una serie di class action. Sentiamo. Mentre le procure aprono le inchieste, le associazioni dei consumatori, oltre a costituirsi parte civile, si organizzano con azioni collettive, per il momento separate, ma che potrebbero unirsi. Lo strumento è la class action, tanto famosa in America, ma che in Italia ha molte lacune, dicono i critici. Il Codacons l'ha già depositata al Tribunale di Venezia, Volkswagen Italia, sede a Verona, con udienza fissata a febbraio, ci spiega Carlo Rienzi. Il Tribunale decide se è ammissibile e quindi tutti quelli che si trovano nelle condizioni previste dall'ordinanza del tribunale possono aderire alla class action. E poi, nel caso, ottenere il risarcimento tra 10 e 50 mila euro, stima il Codacons. Ma non si parla solo di danno materiale per la sostituzione dell'auto con centralina truccata, sottolinea Pietro Giordano di Adiconsum, che sta raccogliendo le adesioni per la class action. Io ho acquistato un'automobile che sia a impatto ambientale basso, invece mi sono trovato con un'automobile in parte ambientale alto. C'è un danno morale che a nostro avviso va risarcito. E anche quello ambientale, che Fare Ambiente vuole far riconoscere. Oltre all'azione in Italia, Federconsumatori e Adusbef sono pronte a un'azione europea. Sentiamo Rosario Trefiletti. Noi abbiamo scritto ai gruppi politici europei e anche e soprattutto italiani per spingere in Europa la stessa comunità a mettere in campo una direttiva che possa portare a una class action europea. Che, ricordiamo, ancora a livello comunitario non esiste. Livia Zancanera, Radio 24, Sole 24 Ore. E a proposito di Volkswagen e soprattutto a proposito di Germania, dopo i dati negativi su ordinativi e produzione industriale, la Germania fa segnare un crollo dell'export in agosto. Il ribasso è stato del 5,2% dal più 2,2% segnato a luglio, contro la stima che era un meno 0,9%. Il calo più forte dal gennaio del 2009, e vi ricordo che eravamo in piena crisi. Il surplus commerciale si è ridotto a 19,6 miliardi dai 22,4 di luglio. I principali istituti di ricerca tedeschi, con una nota congiunta proprio questa mattina, hanno tagliato nettamente le stime di crescita da un più 2,1% previsto per quest'anno ad un più 1,8%. A tutto questo si aggiunge la notizia che è arrivata ieri sera da Deutsche Bank, che ha una maxi perdita in arrivo. La principale banca tedesca chiuderà il terzo trimestre con un rosso da 6,2 miliardi di euro. Adesso ci fermiamo, andiamo tra un attimo, andremo a sentire che cosa succede sui mercati, sentiremo anche se queste notizie hanno avuto un impatto sulle borse, e poi nella seconda parte ci ritroveremo e torneremo ancora una volta a parlare di quello che sta succedendo a Roma. Come vi dicevamo, sono non ore ma addirittura minuti convulsi quelli nei quali il sindaco di Roma Ignazio Marino potrebbe annunciare le sue dimissioni. A tra un attimo. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto di Radio 24 a metà giornata su quello che succede in Italia e nel mondo, sempre in diretta da EMO, la fiera internazionale dedicata all'automazione industriale e alle macchine utensili. Ecco le notizie principali: il sindaco di Roma Ignazio Marino si starebbe per dimettere, dichiarazioni di poco fa di un assessore, dell'assessore Esposito, che tra l'altro stiamo cercando di raggiungere, il quadro non ci consente di andare avanti. Va a Svetlana Alexievich, scrittrice bielorussa, il premio Nobel per la letteratura. Si alza la tensione con la Russia, la Gran Bretagna invia soldati nei paesi baltici, Mosca replica, reagiremo. La NATO intanto sull'intervento in Siria, non mirano all'ISIS ma a sostenere Assad. La borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo a ritornare su quella che è la notizia in primo piano oggi, ossia le sorti della giunta Marino. Sembra giunta al termine se considerate, come ha detto l'assessore Esposito poco fa, le sue parole esatte sono state: il quadro non ci consente di andare avanti. Qua si è in attesa dell'inizio della giunta, che dovrebbe segnare appunto anche le dimissioni di Marino, e c'è in Campidoglio sempre il nostro Andrea Via per fare un punto e per capire se la situazione è, Andrea, meno confusa di quanto ci siamo collegati poco fa. Prego. Ma no, in realtà il livello di confusione è lo stesso, Simone. La novità è che nel frattempo in Campidoglio, oltre alle telecamere e ai molti giornalisti, sono arrivati anche alcuni sostenitori di Marino, per la verità non moltissimi, e soprattutto esponenti simpatizzanti delle opposizioni, quindi Movimento 5 Stelle, Fratelli d'Italia e Lista Marchini, tutti in attesa di questo passo indietro che il primo cittadino dovrebbe annunciare nel corso di questa riunione della giunta, che dovrebbe essere iniziata, anche se al momento purtroppo, Simone, ancora non abbiamo conferme ufficiali. Comunque, a spingere il sindaco a lasciare l'incarico dopo le polemiche, lo ricordiamo, sulle sue spese sospette, sarebbe stato fondamentalmente il pressing del suo partito, il Partito Democratico, e soprattutto l'ultimatum arrivato da Matteo Renzi, che avrebbe minacciato, usiamo il condizionale, naturalmente non ci sono conferme ufficiali, ma avrebbe minacciato il Premier, il Segretario Democratico, di ritirare tutti gli assessori democratici dalla Giunta se non fossero arrivate queste dimissioni di Marino. Marino che, secondo alcune voci, Simone, anche queste non confermate, nel pomeriggio potrebbe convocare una conferenza stampa per raccontare appunto la sua versione di quanto sta succedendo, Simone. E grazie ad Andrea Viali anche per questo collegamento. Ovviamente torneremo ad aggiornarvi nell'arco di tutta la giornata su quello che sta succedendo a Roma e al Campidoglio, quando e non appena avremo notizie. Vogliamo parlare adesso, vogliamo approfondire un attimo il Nobel per la lettura, per la letteratura di oggi, che è andato alla scrittrice bielorussa Svetlana Alexievich. Saluto il professor Gianni Turchetta, che insegna letteratura contemporanea alla Università Statale di Milano. Professor Turchetta, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti gli ascoltatori anche. Allora, che indicazioni e che dettagli ci può dare su questa scrittrice? Ma intanto è stata una scelta abbastanza coraggiosa dell'Alexievich, si parlava già con una possibile candidata. Secondo me la scelta è coraggiosa perché è una scrittrice non di fiction, nasce diciamo giornalista. I suoi libri sono libri straordinari nei quali ha raccontato soprattutto la Russia, o meglio l'Unione Sovietica post-comunista, e lo ha fatto raccogliendo soprattutto le voci delle persone. Si è occupata per esempio della guerra in Afghanistan, intervistando moltissime persone, soprattutto le madri, in un libro come Ragazzi di Zinco, dove i ragazzi di zinco sono quelli 14.000 tornati a casa nelle casse di zinco perché erano morti, e ci parla appunto di un grande episodio storico, però ce ne parla soprattutto intervistando la gente. Così accade anche nel libro Incantati dalla morte, in cui parla dell'ondata di suicidi dopo il crollo del comunismo, così nel libro che credo sia il suo più noto, almeno in Italia, intitolato Preghiera per Chernobyl. Chernobyl sì, è il disastro nucleare, è la contaminazione, però soprattutto l'Alexievich è molto brava a farci capire quali sono i sentimenti, che cosa diventa la vita comune, che cos'è l'esistenza quotidiana delle persone coinvolte nei grandi eventi storici. E questa è la sua forza, questo è il motivo per cui appunto credo l'Accademia svedese abbia scelto di premiare una scrittrice che in prima approssimazione potrebbe essere stata considerata un passo dietro nomi ben più noti di scrittori più propriamente di fiction. Senta, professor Turchetta, è un Nobel politico, spesso è stato detto, no, per una serie di Nobel assegnati negli ultimi anni, è un Nobel politico, cioè la scelta di una scrittrice che, come ci diceva lei, non è propriamente una scrittrice, ha un significato, secondo lei c'è un senso letterario vero in questa scelta? Ma io sarei per questa seconda ipotesi, cioè ha un senso letterario vero. Poi è vero che Nobel è un premio che storicamente ha sempre criteri che sono anche un po' politici, sono diciamo un po' di rotazione geografica, un po' di riconoscimento di valori che sono anche in qualche modo nell'impegno sociale. Certamente l'Alexievich ha questo, però per quanto ne so, non leggo il bielorusso, la leggo in traduzione, è comunque una scrittrice che ha saputo dare uno spessore letterario a questi suoi reportage, e in un certo senso riconoscimento all'Alexievich è riconoscimento a tutta una serie di scrittori barra giornalisti, prima che viene in mente Kapuscinski o John Berger, che comunque hanno fatto vera letteratura. Poi sa che cos'è la vera letteratura? Probabilmente è anche questo, e comunque negli ultimi anni abbiamo assistito a un bisogno di realtà che è penetrato dentro la letteratura. In questo senso io credo che sia appunto vera letteratura, anche se c'è un po' di politica. Quindi una buona scelta, professore. Ma io penso di sì, una scelta non scontata, non del tutto imprevista, perché comunque erano dei nomi che si era fatta, rispetto certo a nomi più attesi come l'eterno Philip Roth, come Murakami, a cui speriamo che gli anni futuri insomma diano il dovuto riconoscimento, però questa è una scelta interessante, originale, a me piace. La ringrazio, grazie a Gianni Turchetta che ci ha aiutato anche a tracciare il profilo della scrittrice che ha vinto il Nobel, e lo ha fatto tra l'altro molto bene, docente di letteratura contemporanea all'Università Statale di Milano. Noi adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, e poi c'è come sempre America 24 con Mario Platero. Ci ritroviamo alla fine per i saluti.